Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Un saluto da Maurizio Melis e benvenuti a Mr. Kilowatt. È noto che un pezzo di efficienza energetica viene dalla capacità di sfruttare l'energia disponibile localmente. Questo è anzi uno dei paradigmi di fondo che bisogna imparare ad applicare. E la tecnologia sta indubbiamente evolvendo in questa direzione, nel senso cioè di adattare per piccole taglie tecnologie che prima trovavano applicazione solo su larga scala. Uno dei casi più interessanti riguarda l'idroelettrico, che ha subito una progressiva, diciamo, scalatura, tanto che oggi si parla di mini idroelettrico e perfino di micro idroelettrico, facendo riferimento a impianti da meno di 100 kW di potenza. Ebbene, proprio di micro idroelettrico ci occuperemo stasera insieme all'ingegner Nino Frosio, titolare dell'omonimo studio di progettazione. Buonasera, Frosio. Buonasera a lei. Ci aiuti immediatamente a identificare quali sono le situazioni nelle quali si può pensare di andare a installare un impianto micro idroelettrico. Beh, visto che gli impianti idroelettrici soffrono molto di problemi di scala, ci devono essere delle situazioni particolarmente favorevoli, sia delle opere civili o situazioni idrauliche, per cui una che mi viene in mente subito è l'installazione di queste macchine negli acquedotti, dove già esistono le tubazioni fatte, le opere di presa. E in generale laddove si possono utilizzare opere per più scopi, quindi impianti che abbiano più funzionalità, anche gli impianti irrigui per esempio offrono questa possibilità, perché l'acqua già derivata per fini irrigui può essere utilizzata bene anche per scopi idroelettrici, e questo riduce notevolmente i costi, che nei piccoli impianti, i costi unitari diventano piuttosto alti. Fisicamente che cosa deve essere presente? Ci vuole una portata di acqua, ci vuole un salto di acqua. Proviamo a dare qualche cifra. Ci servono salti per forza molto alti o bastano anche salti bassi, insomma? Sì, i salti alti sono quelli più favorevoli, quelli più attraenti, perché appunto la potenzialità è data dal salto e dalla portata. I salti alti, diciamo, che si possono individuare sopra i 100 metri, i medi salti dai 10 ai 100, sì. I bassi salti sotto i 10 metri. All'interno dei bassi salti poi possono essere individuati anche i salti molto bassi, che sono sotto i 3 metri, che sono estremamente interessanti perché molto diffusi sul territorio e non ancora utilizzati per problemi tecnologici nel passato. Quindi anche salti da 1 a 3 metri sono utilizzabili per produrre energia con una tecnologia specifica, perché se ho capito bene, mentre sui salti alti, chiamiamoli così, alti o medio alti, ci sono proprio delle turbine al limite in miniatura che funzionano, più o meno simili a quelle dei grandi impianti idroelettrici, su questi salti molto bassi c'è una tecnologia diversa dalla quale forse dobbiamo aspettarci più novità. C'è più movimento anche in ambito industriale. È vero, c'è molta ricerca negli ultimi anni, proprio negli ultimi 5 anni ci sono anche dei programmi specifici della comunità europea sul very low head, e ci sono tecnologie non propriamente una sola, per esempio c'è la coclea, che è una macchina, la cosiddetta vite d'Archimede. Infatti. E questo già dice quale sia l'origine, che è nato, non proprio nuova. E infatti veniva utilizzata la vite di Archimede per irrigare i giardini di Babilonia, così si racconta. Proprio così. Siccome la vite è un meccanismo reversibile, si può sollevare l'acqua o in alternativa farla scendere, quindi sollevare vuol dire metterci energia, farla scendere vuol dire ricavarne. E questa è una macchina molto semplice, con dei grossi vantaggi, quindi che ha una possibilità di utilizzo proprio sui bassissimi salti, molto interessanti. Poi ci sono uscite anche macchine molto moderne e più sofisticate, di grande diametro, delle specie di ventilatori inseribili direttamente, delle macchine sommergibili pure, quindi c'è tutta una novità che sta avanzando già su mercati, con i modelli già sperimentati, altri in via di sperimentazione, quindi ci si attende molto nei prossimi anni. Quindi bisogna tenere gli occhi aperti, insomma, il messaggio potrebbe essere questo. In quanto si ripaga l'investimento? Ecco. Dipende molto dalle condizioni al contorno, soprattutto dalle opere di civili, che sui bassi salti riescono ad arrivare al 60% del costo totale, quindi è lì appunto quello che dicevo prima, se si riescono a condividere con altri usi si abbattono i costi. Però nei casi più felici si può pensare di arrivare a un 5 anni di ritorno investimento, e quelli un po' più difficili intorno ai 15 anni. Abbiamo fatto il caso degli acquedotti, per esempio, abbiamo fatto il caso dei canali irrigui. Poi ci sono però delle situazioni anche un po' particolari, invece un po' più estreme, nelle quali può avere senso applicare queste tecnologie. Certamente laddove l'energia ha un grande valore, per esempio nei rifugi di montagna, e qui certo siamo in presenza di alti salti, quindi di macchinette piccole, facili da trasportare, che non inquinano assolutamente, tra l'altro in quota il problema è sensibile. E a questo proposito ci sono moltissime applicazioni anche sorprendenti e poco note. A me è capitato l'alimentazione di un rifugio nel Tikal in Marocco, alimentato da una piccola turbina di 3 kW italiana, ma ancora meglio la piramide di vetro sull'Himalaya per la ricerca è alimentata da un piccolo generatore idroelettrico, anche questo di costruzione italiana. Costruttori italiani sono d'eccellenza in questo campo. Solo un dato per chiudere, complessivamente in Italia abbiamo circa 250 impianti per un totale di 10 megawatt. È un settore, questo del microelettrico, il cui potenziale non è noto perché si tratta di una fonte molto locale che sfrutta piccole portate e che quindi sfugge alle grandi campagne di rilevamento. E quindi cruciale il ruolo di chi vive sul territorio nell'identificare le opportunità. Bene, grazie per averci seguiti, vi ricordo l'email mrkilowatt@radio24.it. Noi ci risentiamo domani alle 21.07-21.08 per parlare di come risparmiare energia negli impianti condominiali con il riscaldamento centralizzato.